Allora, qui siamo. Come? Qui siamo al. Al ristoro dell'anno santo. Dell'anno santo, che è il bivio tra. Questo è il bivio vero, giustamente, va il nodo delle cinque strade. Vero, fra Grassano, Matera, Potenza, Scalo Grassano, Calle e Irsina. Vero. E il 9 agosto del 1967 chi parla è. Moliere. E lei chi è, scusa? Io sono Bosio, di Milano, no? Dirigevo la casa editrice Avanti e adesso le edizioni del Gallo, no? Quindi sono stato qui quando è morto Rocco Scotellaro. Siamo in ferie a Praia Mare, siamo venuti a trovare la mamma di Rocco e adesso abbiamo detto andiamo a trovare qualche personaggio del libro di Rocco Scotellaro. Qui la sua storia è ferma al 1962. Ed è a 63. 1952. 53. Che ecco, perché io ho converito con lui il 53, vero? Settembre del 53. Già. E da allora cosa è successo? E da allora ne è successo chissà quando, vero? Non si è fatto. E siamo ancora in dure lotte, vero? Delle ingiustizie, perché non è mica finito delle lotte. Vero, perché dopo del mio avvio, che ecco, giusto di quando racconto il libro, non so se mi spiego, sì. Ho dovuto per venire qua, non ho dovuto scrivere un figlio all'anagrafe, che non lo dico io, ma lo dice il contadino del Sud. Quindi non lo dico io, ma lo dice il contadino del Sud, che ho creato una repubblica assoluta. È vero, la Repubblica di Moliere, che giustamente ha riso il mondo intero, non so se mi spiego, questa è la verità. Vero. Quindi poi hanno creduto di volermi combattere, stroncare del tutto, vero, di quanto era la mia attività, ecco, hanno venuto a buttare 200 e passi milioni per fare, vero, la mia attività. Quindi quando a me non si poteva dare nessuna autorizzazione di avere un avvio di questo ristoro, poi l'hanno tutto raddoppiato, tutte le mie iniziative, tutto raddoppiato, non so cosa spiegare. E che con la buona intenzione di volermi distruggere del tutto, che non mi hanno potuto distruggere perché sono Moliere Michele, non so se mi spiego, ma è vero. E questa è la cosa assorbente, vero, che siamo ancora delle lotte. Ancora? Sì, perché insomma se ne sono fatte. Le ingiustizie se ne fanno tante. Voi sapete che non è mai vero, si porterà una fine. Beh, vedo così, però che lei è cresciuto, lo vedo anche più soddisfatto, cioè costruito. Sono pieno delle mie soddisfazioni, perché a me non mi può più nessuno, non so se mi spiego. So camminare in retta linea, in retta via, ma non mi possono più sopprimere, perché giustamente le mie attività sono chiare e semplici, certo. È vero. Vedi? Questi sono i figli miei, vero? Quindi quella è sposata, questi sono i nipoti miei, vero? Da io che avevo un'idea ho portato, vero, tutta la famiglia qua. Tutta la famiglia? Tutta la famiglia, sono due sposate, lei è sposata, vero? C'è quella e un'altra bambina. Quello è un altro, quello che stava a Torino, per dire, sì. L'ho obbligato, sta qua, e c'ha tre figlie, ecco, questa è una delle figlie e un'altra due che stanno qua, vero? Quindi, ecco, fatta la collaborazione. Anche riunita la famiglia. Ecco, cerco di fondare il posto, ecco. Certo, non sono mica tanto contento perché non è vero di quanto li obbligo io, ma per rispondere all'educazione devono sottostare. Non so se mi spiego. E giustamente tutti gli sforzi possibili li facciamo per il posto e per l'avvenire. La vita, il mondo cresce, non è tanto da dispiacersi, perché, ma potevamo essere ben incontrati ancora, perché oramai mi sono distinto, vero, che sono saldo di carattere, quindi mi potevano. Da tempo dei contadini del Sud, cioè dal 53. Ad oggi sono passati 14 anni. L'Italia, Italia, Tricarico, Grassano, la sua Repubblica qui dell'anno santo, si sono cambiati, modificati, sì, trasformati, sì, sì, sì, sì, in bene, sì, in male, non... ma... suo giudizio. Insomma, si hanno trasformato bel contadino che con queste vie aperte, è vero, che hanno, ma si abbandona il lavoro, ecco. E giustamente non si risponde più a quello che è, come si era nato, non so se mi spiego. Ecco, io trasvolgo la domanda, trasvolgo che cosa, ma è una parola che lo dico bello apertamente, lecitamente. Noi abbiamo conosciuto, beh, è vero, chi ha degli anni maggiormente maturi, io con i miei 63 anni, non so se mi spiego, ma ho conosciuto tre epoche. È vero, quindi l'epoca che si facevano i diritti senza che si conoscevano i doveri. Abbiamo conosciuto l'epoca di Mussolini, per quando io sono stato un avversario, che il libro lo dice, che appunto abbiamo subito anche la querela del segretario politico, non so se mi spiego, e che sono stato sempre apolitico e un criticante all'ingiustizia. Vero, quindi abbiamo conosciuto l'epoca dei diritti e doveri. Oggi, vero, giustamente, anche il contadino cerca tutto da impiegarsi, tutto, se non hanno la via di impiegarsi, vero, cercano di scappare all'estero, ecco, la terra. Si continua, ma non come quando va. Senta. Se...